Quest'anno Via Libera appunto fa quello che crede, ma una condizione, una richiesta, aiutarci a cogliere in queste letture, in questa lettura della parola, qualche cosa che veramente ci tocchi la nostra vita, insomma. La domanda è, ma queste robe che leggiamo ci dicono veramente qualcosa? Cambiano qualcosa nel nostro modo di vivere, di relazionarci, di affrontare i vari momenti, le varie situazioni della vita? O una roba che rimane così per aria? La sfida è questa. Noi crediamo che sia così, vogliamo essere un po' aiutati in questa ricerca. E ringraziamo Angelo di dedicarci in questo tempo. Io proporrei di iniziare con questa preghiera che abbiamo trovato nell'archivio informatico di Don Giorgis, che è di Carlo Maria Martini. Credo che Martini a Milano la utilizzasse quando introduceva le sue lezioni di lezione della Bibbia con i giovani, soprattutto di uomo. Legge Carlo. Ti ringraziamo, Signore, perché questa parola, pronunciata 2000 anni fa, è viva ed efficace in mezzo a noi. Riconosciamo la nostra impotenza e incapacità a comprenderla e a lasciarla vivere in noi. Essa è più potente e più forte delle nostre debolezze, più efficace delle nostre fragilità, più penetrante delle nostre resistenze. Per questo ti chiediamo di essere illuminati dalla parola, per prenderla sul serio ed aprire la nostra esperienza a ciò che ci manifesta, per darle fiducia nella nostra vita e permetterle di operare in noi secondo la ricchezza della sua potenza. Madre di Gesù, che ti sei affidata senza riserva, chiedendo che avvenisse in te secondo la parola che ti era detta, donaci lo spirito di disponibilità, perché possiamo ritrovare la verità di noi stessi. Donaci di aiutare ogni uomo a ritrovare la verità di Dio su di lui. Fa che la ritrovi pienamente il mondo e la società in cui viviamo e che vogliamo umilmente servire. Te lo chiediamo, Padre, per Cristo Gesù, tua parola incarnata, per la sua morte e risurrezione, e per lo Spirito Santo che continuamente rinnova in noi la forza di questa parola, ora e per tutti i secoli. Amen. Amen. Il testo l'abbiamo ricordato nel libro sulla figura di Don Giorgio. Allora, quello che proverò a fare è un lavoro un pochino complesso, nel senso che è più difficile forse da seguire, e ve ne chiedo scusa, ma è quello che si può fare in contesti come questo e non sulla meditazione, che magari è più quotidiana, più normale, su singoli brani, cioè lo sguardo dall'alto, che è quello più difficile, è quello che però secondo me ci restituisce appieno la forza e la continuità di proposta di questa biblioteca. Biblioteca che altrimenti, se trattassimo come una serie di indicazioni da cogliere, da fare nostre, da cui adeguarci, sarebbe veramente una biblioteca uscita male. Molto incoerente, esageratamente grande, spesso dispersiva. Il punto è che non è, e quell'approccio di cogliere nella scrittura le cose da fare, tradizionalmente per essere ben visti da Dio e quindi poi essere premiati, magari in chiave un pochino più contemporanea per vivere bene, è l'impostazione che ai noi è normale pensare sulla Bibbia, sicuramente per chi non la conosce, purtroppo spesso anche per i credenti. È più complessa e allora voglio provare a fare proprio il percorso lì dentro, notando che cosa ci succede. A partire molto più brevemente da uno sguardo sul nostro mondo, nel senso che cogliere perché cosa possa essere utile per il nostro mondo comporta anche avere un'idea delle coordinate più fondamentali del nostro tempo, della nostra cultura, su cui sono convinto, non è il campo mio, quindi posso più facilmente mirare male, andare fuori strada, dire stupidaggini, ma anche per questo cerco di essere corto su questa parte, perché se no almeno condenso tutte le stupidaggini in un tempo più stretto. Mi pare che il nostro, non è un caso che ci sia così fascinazione nel nostro tempo per la fine degli imperi, fine dell'impero romano, la decadenza dei grandi imperi europei, perché in qualche modo ci sentiamo, non importa che lo siamo o no, ma ci sentiamo in un contesto simile. Cioè sentiamo che è stata costruita una civiltà promettente su tanti aspetti, che in qualche modo sta faticando a mantenere le proprie promesse, a mantenere i propri standard. Promettente, ammettiamolo, in tempi di decadenza si diventa pessimisti esageratamente anche su di sé. Nella umanità non è mai stato scritto qualcosa come la Dichiarazione dei diritti dell'uomo con la pretesa che sia universale e con la tutela dei diritti di ogni singolo uomo. C'è qualcosa di spettacolare, mi si può dire non sono state applicate, vero? Non pienamente. E nello stesso tempo, quando si intuisce che l'ideale è più in alto di quello che io sto vivendo, è sempre un bel momento per l'umanità. Quando si coglie che appunto l'ideale non è io cosa faccio adesso, ma che dovrei arrivare là. Che lo vogliamo o no, cioè che lo riconosciamo o no, viviamo in una delle pochissime aree del mondo dove non ci sono guerre combattute da 70 anni. E con delle proposte che sono originali, perché l'idea di concedere del potere senza essere costretti a farlo non è umanamente banale, ed è quello che comunque si sta vivendo nell'Europa occidentale, tra alti e bassi, con problemi, con limiti, tutto quello che vogliamo. Dentro a questo cogliamo che non sappiamo se riusciremo a mantenerlo, ci rendiamo conto delle incoerenze, ci rendiamo conto che per tutelare i diritti dei singoli e dei più deboli dentro un certo perimetro li riduciamo all'esterno, siamo disposti a farlo. Cogliamo che un certo modello di sviluppo e di benessere ci ha anche portati a rovinare le potenzialità di benessere per le generazioni future. Siamo consapevoli di un problema ecologico serio, che non è più soltanto l'inquinamento dell'ambiente in cui viviamo, ma potenzialmente mette a rischio la sopravvivenza di un sistema naturale mondiale come lo conosciamo. E fatichiamo a prospettare un miglioramento di condizione per le generazioni che saranno. Se questo quadro più o meno tiene, è a questo quadro che eventualmente qualunque messaggio umano deve relazionarsi. Cioè è di fronte ad un mondo che ritiene di aver costruito delle cose interessanti e belle e non sa se riesce a difenderle. anzi si sente minacciato e indebolito. Alcuni dati sono forse persino eccessivi nella loro spietatezza, in Italia peggio che altrove, nella misura in cui la disponibilità a concedere nuove vite si ridimensiona così tanto, abbiamo uno dei tassi di fecondità più preoccupanti del mondo, e viviamo in un contesto, quello europeo, dove questo tasso è basso, quindi sì, prospettive, benessere anche dei diritti, non è soltanto benessere economico, certo che c'è, ma è proprio un benessere di diritti. Oggi se potessimo scegliere dove nascere perché i nostri diritti vengano riconosciuti, si nasce in Europa occidentale. È la parte del mondo più sicura e protetta, e però quella meno disposta a donarsi, a donare altro ad una generazione dopo. È a questo mondo che la Bibbia vuole provare a parlare. Vuole provare? No. È a questo mondo che presumiamo che possa continuare a parlare. E come? Non con una, due, 10, 20 pagine che sono adattabili al contesto, ma con un percorso che è ancora più interessante, cioè ciò che è successo in questa biblioteca, che, dicevo, è una biblioteca, non è un libro, lo sappiamo benissimo, poi in questa casa non potremmo non saperlo, uno dei modi più balordi di entrare nella Bibbia e di immaginare di leggerla come un romanzo dall'inizio alla fine. Io dico sempre che fammi scommettere dove ti sei fermato, perché ci sono quei 3-4 punti in cui so che ti sei arenato. Non è un romanzo, non funziona così. È sbagliato leggerlo così, è inutilmente masochista leggerlo così, perché è una biblioteca. E in una biblioteca c'è il libro che rileggi anche tutti i giorni perché ti nutre, e c'è quello che tieni lì per consultazione, che potrebbe anche stare fermo 20 anni senza essere aperto, ma è sensato che ci sia. E potrebbe arrivare il momento in cui torna utile. Questa biblioteca cosa ci offre? Semplificando moltissimo, quello che nella esperienza religiosa di persone, di tempi, di culture, di condizioni diverse, loro hanno ritenuto utile, importante per la loro vita e quindi da tramandare per altri. Non vuol dire che lo sia in assoluto, ma loro hanno colto lì quell'essenziale da trasmettere. E non vuol dire neanche che quell'essenziale da trasmettere sia immediatamente visibile, perché magari per loro era più importante sottolineare alcuni aspetti che magari noi cogliamo come più facilmente secondari, ma ci vediamo dentro, in qualche modo fanno da indizio per cogliere dentro una relazione con il trascendente, per adesso mi tengo proprio così sul vago, ma in realtà potrei tenermi così fino alla fine, indipendentemente dall'interpretazione che gli danno lì dentro, una relazione con il trascendente che è vitale, che aiuta a vivere. E io adesso mi butto su un percorso che è storico, cogliendo in che modo lì dentro hanno vissuto le esperienze che si sono trovate a vivere, che non è l'analisi di questa o quella pagina, ma è proprio di un percorso, appunto, è quello che si può fare qua, altrove non sarebbe immaginabile, perché ci vuole tempo, perché ci vuole disponibilità ad ascoltare e a farsi condurre in un percorso un pochino più accidentato e complicato. Fino all'VIII secolo avanti Cristo le popolazioni che vivono in quella che noi oggi chiamiamo Palestina non si distinguono in modo particolare da chi hanno accanto. Una delle tradizioni che abbiamo di interpretazione da catechismo è che gli ebrei unici nel mondo sono approdati al monoteismo. Ma veramente, allora, piccola annotazione quasi terminologica. Se vogliamo essere pignoli, gli ebrei dei tempi biblici più antichi, che riusciamo a ricostruire, sono non monoteisti ma enoteisti, cioè dicono noi avremo un solo Dio. E in questo non sono diversi da nessuno dei loro vicini geografici. Poi che quello di Giuda si chiami Yahweh, che quello di Sidone si chiami Baal-Zephon, che quello di Moab si chiami Chemosh, cambia abbastanza poco. Quello che cambia è nella storia, ed è da lì in poi. Cambia che alla fine del VIII secolo avanti Cristo compare l'impero neoassiro in zona, prima rende vassalla il regno di Samaria, del nord, quello che noi chiamiamo di Israele del nord. Poi alla rivolta inevitabile, perché succede, la dinamica dentro a cui il regno di Samaria è coinvolto è la dinamica che l'impero assiro impone a tutti gli stati che incontra, a tutte le autonomie che incontra. Un primo scontro che porta l'impero neoassiro è quello che aveva l'esercito di professionisti, 11 mesi all'anno in esercito, è una novità, non si era fatto prima. E chi è che coltiva a casa? Gli schiavi, che loro continuano a ottenere da campagne militari una dopo l'altra. L'impero neoassiro si regge economicamente sulla guerra, e comprese gestioni psicologiche interessanti, perché si presentano sotto le insegne della luna, della divinità negativa, un po' come i pirati con il teschio e le tibie, cioè fai già paura dal presentarti prima ancora dello scontro, che sai essere contro un esercito imbattibile, forte, numeroso, professionista, ben armato. E per stati che Samaria è relativamente ricco e grosso, sì, però non c'è possibilità di confronto. Un primo scontro che porta al vassallaggio e ad una forma di tassazione di tributo annuale pesantissimo tra un terzo e metà della produzione dello Stato. Reggibile per un po' e poi ti ribelli perché sai già che è questione di tempo. A quel punto il principio è che tu ti sei ribellato ad un patto e devi essere punito. E dopo l'inevitabile vittoria degli Assiri seguirà la deportazione di tutti gli elementi importanti dello Stato. Nobili, la famiglia regia no perché viene sterminata, i commercianti, gli agricoltori più importanti, gli scribi, i sacerdoti più importanti, perché? In modo che se quello Stato volesse ancora ribellarsi non ha nessuno abituato a comandare e sarà più facile batterlo. La tattica assira funziona al 100% sempre. Quando l'impero assiro andrà in crisi? Quando per 2 anni di seguito avrà 2 campagne militari non particolarmente positive come bottino. Basta quello mandarlo in crisi. Però finché funziona è una macchina spietata, efficacissima, con una distribuzione dei deportati in tutto l'impero, in modo che non si parlino più tra di loro. È una cancellazione sistematica e intenzionale delle culture che incontra e funziona. Fanno terra bruciata. Lì alcuni sacerdoti, avrei dovuto dirlo prima, lo aggiungo qui la premessa, io vi offro una ricostruzione che è molto probabile di tutto questo percorso, ci sarebbero ricostruzioni in parte diverse, ci sono sistemazione dei vari pezzi storici ha anche proposte diverse. O non dico niente o prendo la più convincente per me, più affidabile, e non ve la spiego passo per passo, prendiamola per buona, perché il discorso generale reggerebbe anche con un'altra ricostruzione storica, però di una mi devo servire, uso questa. Se ne leggeste diverse non è detto che siano sbagliate, e comunque non è detto neanche che siano stupidaggini, perché si discute, insomma. Comunque, alcuni sacerdoti di Samaria scappano portando con sé alcuni scritti, e scappano dove? A Gerusalemme. E cosa si portano dietro? Con buona probabilità almeno il nucleo essenziale dei profeti Amos e Osea. È interessante. Cioè, è un passaggio interessante, minimo per la storia. Eppure, alcuni sacerdoti che sanno che il loro ruolo e il loro tempio stanno per essere cancellati, che sono consapevoli, sono anche quelli più colti, sono consapevoli che non c'è speranza per Samaria di sopravvivere culturalmente, decidono di mettere in salvo una parte del proprio patrimonio, che probabilmente hanno già scritto, e vanno a Gerusalemme. Cioè riconoscono in quello stato lì vicino, più povero del loro, più marginale, una continuità, e si portano dietro dei testi che dicono che cosa? Tanta roba, nel senso che oltretutto il tipo di scrittura è poetico. È probabile che Osea manchi ancora della introduzione più narrativa, che ce lo rende più semplice, più comprensibile. I primi tre capitoli si capiscono, poi è un po' più difficile capire Osea semplicemente perché è poesia. È poesia allusiva della contemporaneità che noi non conosciamo. Quindi facciamo un bel po' di fatica, però qualcosa si ricostruisce lo stesso. Ad esempio in Osea, nel capitolo 11, si ricostruisce una riflessione sulla storia del popolo con il suo Dio. È un popolo che viene presentato come non in una dinamica di sovrano-vassallo, che era la dinamica normale semita per pensare il rapporto con le divinità. E proprio in un modo molto brutale, perché gli stati più forti vincevano? Perché avevano gli dei più grossi alle loro spalle. E perché erano i più forti dei? Perché gli dei scelgono le popolazioni in base alla propria forza, e i più importanti si scelgono per primi le popolazioni, quindi si scelgono le migliori. Questa è una dinamica che ci fa, giusto, cosa c'è di spirituale in tutto ciò? Va bene. E infatti era abbastanza normale che la popolazione vinta passasse anche alla divinità dei vincitori, perché è più forte e perché il nostro Dio non ci ha difesi. Che alcuni sacerdoti decidano di uscire da questa dinamica è interessante, perché non è un passaggio banale quella scelta di scappare a Gerusalemme portandosi dietro dei testi profetici. Si sono portati dietro tutto quello che avevano o solo qualche scelta? Non lo sappiamo. In quella scelta o in tutto quello che avevano, in ogni caso è interessante cosa c'è dentro. Perché, dicevo, Osea prospetta una divinità che entra in una relazione che è di amore, come di un figlio, con alcune immagini che sono tenere per noi oggi addirittura. Io gli insegnavo a camminare, ero come chi lo tiene per le ascelle, quell'immagine carinissima di chi, no, stai camminando da solo, non ti sto aiutando, però nello stesso tempo se cadi ti prendo ancora. Lo traevo come con legami d'affetto, viene tradotto nel nostro testo, sono È anche una lingua ebraica complicata da tradurre, perché è vecchia, è proprio, e non tutto si capisce. Però non importa, il discorso è quello. E Israele mi ha tradito, si è volto ai suoi amanti. Che cosa farò per questo? Beh, non c'era bisogno di dirlo, perché la cultura semita ha una certa continuità da Edom fino a Sumer ormai in questo tempo, ed è una mentalità molto potentemente maschilista, molto gerarchica, dove chi sta sotto deve eseguire e compiere il suo lavoro, e se non lo fa, già se non ci riesce, ma soprattutto se tradisce, va tagliato via. E vuol dire pena di morte, senza problemi. Cosa farò? Io dovrei distruggerti, ma come faccio a distruggere mio figlio? Mi si torcono le viscere all'idea di farti male, Efraim. Quella è una pagina imprevedibile nell'VIII secolo avanti Cristo in un mondo semita. Perché non è ciò che ci saremmo aspettati. C'è l'intuizione, perché? Non lo sappiamo, ma c'è l'intuizione da qualcuno che la divinità con cui siamo in relazione è una cosa diversa dal mondo culturale che abbiamo intorno, ed è una divinità che può restare in relazione anche di fronte alla sconfitta e al tradimento. Cioè che c'è una relazione che resta vitale nonostante le catastrofi storiche. Ed è un passaggio imprevedibile, originale, che si accompagna in Amos all'intuizione che questo tipo di rapporto non è diverso da quello che Dio mantiene con tutte le altre popolazioni del mondo. Siamo nell'VIII secolo avanti Cristo. Non siete per me voi come gli etiopi, figli di Israele? Non sono io che ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto, i filistei da Caftor e gli aramei da Kir? Ma come? Come tutti gli altri? È prestissimo. È un'intuizione antichissima questa. Che significa uscire dalla dinamica gerarchica tra le popolazioni e gerarchica tra la divinità e la popolazione. Entrare in una dinamica relazionale e vitale. Non ci costruiscono granché su questo. Non strutturano chissà quali sistemi religiosi, spirituali, eccetera. C'è pochissimo. Però c'è un'intuizione geniale, nuova, alle spalle della quale, se io voglio fare una ricostruzione storica precisa, non riusciamo ad andare. Poi ci arrivo, lo so che nella nostra Bibbia ci sono delle altre cose che succedono prima, ma ci arrivo. Spoiler, potrebbero essere tutte inventate. Ma non fa niente, perché è interessante che emerga questo sentire, che qualcosa ci dice già. Che le catastrofi storiche non negano né umanità, né spiritualità, né costruzione del senso che c'era prima. Questi sono sacerdoti di un tempio che sta per essere distrutto, e che sarà distrutto, e non torneranno a fare i sacerdoti lì mai più. Eppure ritengono che sia utile salvare queste cose. E si rifugiano a Gerusalemme. Appunto, cogliendo probabilmente una continuità. Parlavano quasi la stessa lingua, ma sì, però anche a Damasco, anche a Sidone. Cioè, perché lì? Perché sono più a sud e gli Assiri arrivavano da nord? Ci sta, va bene. È solo una motivazione storica, geografica. Vai a finire in Egitto. C'è una differenza culturale più grossa e linguistica. Vero. È proprio solo un caso, può darsi. Ciao. Gli assiri ovviamente poi non si fermano lì. Arrivano anche a Gerusalemme, dove compare un profeta che diventerà famoso, un profeta di cui abbiamo il nome, è Isaia, è il primo Isaia. Diciamo i primi 39 capitoli, 36, va? Del libro che adesso noi conosciamo come il libro di Isaia. Che, volendo sintetizzare molto il suo messaggio, è: non preoccupatevi, Dio risiede in questo tempio, tempio del Signore è questo, Dio non lascerà che il tempio vada distrutto. È un'impostazione un po' superficiale, un po' superstiziosa, può darsi, ma funziona lì per lì. Funziona perché gli assiri arrivano, assediano Gerusalemme anche qua. Ci sono delle ragioni storiche per ciò che accade, sì, in parte le conosciamo, in parte no. Gerusalemme è un buco di posto, detto proprio brutale, cioè nell'VIII secolo avanti Cristo è una cittadina da 15-20.000, 50.000 abitanti, ma 50.000 mai più, ma comunque facciamo pure, esageriamo, povera, molto ben difesa geograficamente, è messa come cuneo, quindi, e in più ha una fontana d'acqua che è stata deviata e viene dentro alle mura. Quindi tu vai ad assediare una città messa così, con l'acqua dentro, vabbè, ci mettiamo quello che ci vuole, a Tiro assediano per 10 anni, alla fine la prendono, sì, ma quando prendi Tiro ti ripaghi abbondantemente i 10 anni di assedio. Gerusalemme no. In più c'è il sospetto che sia successo qualcosa a palazzo, perché gli annali assiri di solito molto precisi lì diventano un po' confusi. Quindi probabilmente il re stabilisce che non vale la pena e molla l'assedio dopo 2 mesi. Dio ha liberato il suo popolo. Tra l'altro gli ebrei non capiscono perché questi se ne siano andati, neanche loro, e quindi è Dio. Si inventano, ma non sono molto convincenti, ma non ci credono anche loro, forse c'è stata un'epidemia, forse, no, fa niente, se ne sono andati. Dio ha salvato il suo tempio. Isaia aveva ragione, ma Isaia stesso, nel suo messaggio, in realtà va più in profondità e complica le cose. E qua recupero, vi indico il 7° capitolo, quello oggettivamente, sono tante pagine belle, già nel primo Isaia. Capitolo 7 è noto perché in Avvento lo risentiamo, perché i cristiani ci hanno visto tante cose comprensibili, ma io vi restituisco il quadro storico molto verosimile. C'è un re appena salito al trono, a cui i due re vicini di Samaria, quindi torniamo indietro di qualche anno, e di Damasco, molto più forti di lui e stabili sul trono già da un po', chiedono di unirsi per una coalizione contro gli assiri. Lo sanno tutti che da soli non avevano speranza, insieme poca, ma almeno qualcosa di più. E questo re non vorrebbe, re giovane, appena salito al trono, sposo da poco, senza figli. A lui il profeta viene mandato per dirgli: non aver paura, non confidare nelle alleanze umane, ci penserà Dio, tempio del Signore è questo. Ma gli dà un segno, anzi, chiedi un segno. E il re: non lo chiedo, non voglio tentare Dio. Che a noi sembra anche un approccio molto corretto, equilibrato, sano, però non dimentichiamoci che i testi vanno letti sullo sfondo culturale in cui sono scritti. Nel mondo semita, se vogliamo capirlo, accostiamoci al mondo dei commercianti arabi. Se io ti offro di entrare in trattativa e tu non entri in trattativa, tu mi offendi, perché non scegli di entrare in relazione con me. Non è che non mi tenti, tu non vuoi, entrare in relazione. E infatti, di fronte a quello, la reazione ideale avrebbe dovuto essere: sì, allora arrangiati. E invece il profeta dice: Dio ti dà un segno lo stesso. Cioè Dio entra in relazione lo stesso, anche se tu non accetti la relazione. La Alma, la giovane donna, anche qua il problema, certo che sarà poi la traduzione, lo sapete, io ve lo richiamo molto velocemente, Alma era la donna dalla prima mestruazione al primo parto. Traducendo in greco non esiste una parola che copra questo spazio, usano vergine, che non è proprio identico, tendenzialmente per quella cultura era quasi identico, mancano 9 o 10 mesi, diciamo che sono quelli che di differenza, però non è la stessa cosa. E se i cristiani, se poi ci arriverò, almeno lì ci arrivo, al Nuovo Testamento non lo so se ci arrivo, ma fino alla 70 ci arrivo, se i cristiani ci leggeranno, e già la 70 altro con vergine, in realtà la promessa potrebbe essere di un figlio che nasce alla giovane regina. E nel contesto è più verosimile che sia quello. È un segno fragilissimo, perché quello che il profeta dice che Dio promette è: ti nascerà un erede. Ho capito, mi nasce un erede, poi me lo massacrano tra 3 mesi. È un segno fragile, ma che ti dice che una relazione Dio la imposta e la mantiene e ti chiede di fidarti di Lui e non di altri progetti. Non è completamente fuori dai giochi politici, ma è un approccio diverso. Il primo Isaia può essere interpretato come un superstizioso che pensa che basti che quel tempio sia santo perché Dio lo salvi. Può. Ma in realtà lì dentro c'è altro che si muove. Dio, il Dio intuito da Isaia, si concentra di nuovo sulla relazione di fiducia, che ha in mano pochissimo, che non ha dimostrazioni, non ha divisioni militari. Affidati. Non è il modo culturale con cui si impostasse la relazione tra la divinità e la popolazione. C'è qualcosa di strano che entra. Vado avanti di 150 anni, o meno. Arrivano i babilonesi, gli assiri sono andati in crisi, sono stati soppiantati dai babilonesi, che usano più o meno la stessa tattica, in modo più umano, poi lo vediamo. Ma prima ancora che arrivino c'è un profeta, Geremia, bellissimo, tormentato, perché si coglie che anche lui non è del tutto sicuro di quello che sta dicendo. Lui dice: voglio smetterla di fare il profeta, basta, mi prendono in giro. Perché lui dice, sintetizzo enormemente, vogliamo essere fedeli a Dio di fronte all'esercito babilonese che arriva? Voi mi dite tempio del Signore questo, lo aveva detto Isaia 140 anni fa, effettivamente gli assiri non ci hanno conquistati, io vi dico, volete essere fedeli a Dio, aprite le porte, lasciate che entrino in città. Abbandonate l'idea di un Dio che entra nella storia gestendo nella politica. Ma dice una cosa diversa da quello che diceva Isaia. Sì, ma lui è un profeta, ha dimostrato di esserlo. E io vi dico, oggi Dio dice violenza e oppressione. Mi prendono in giro per questo, dice Geremia. Non voglio più predicare, però è come se avevo un fuoco dentro. E nello stesso tempo la sua predicazione parte da, non dimentichiamoci che nell'antichità quello che viene detto per primo è più importante, parte dalla visione di un mandorlo, Shokhez, perché io, Shokhez, io veglio, io continuo a custodire. È l'invito a cogliere una presenza di Dio che passa da una relazione personale non più garantita, neanche da un tempio e da un re. È qualcosa di nuovo, non si era mai sentito. La storia dà ragione anche a Geremia. Ma allora chi ha ragione? Tra Isaia e Geremia uno dei due dovremmo buttarlo via, no? I babilonesi arrivano, conquistano, deportano. La differenza è soltanto, non è una differenza banale, la differenza è soltanto che i babilonesi sono molto più fiduciosi degli assiri nella propria capacità di coinvolgimento, di seduzione. E dicono, potete anche stare insieme. Potete continuare ad usare la vostra lingua. Tanto vi assimileremo. Hanno ragione i babilonesi, nel senso che quando tra il 600 e il 1000 si scriverà il Talmud, ce ne sono due versioni. Una gerosolimitana, palestinese, fatta in Palestina, e una babilonese. Le dimensioni di queste due opere, che hanno un pochino la stessa struttura, dipendono dal numero di rabbini che ci sono nei due posti. Bene, quello babilonese è 6 volte quello palestinese, perché gli ebrei sono rimasti. Va bene, Esdra e Neemia ci dicono che ritornano tutti, non tutti, tanti rimangono là, stanno bene là. Nel 1985, non ho sbagliato la data, prima della prima guerra del Golfo che cambia le cose, la seconda città del mondo per numero di ebrei residenti, a parte Israele teniamolo da parte perché è ovvio che ha cambiato un po' le coordinate, la prima città del mondo per numero di residenti ebrei è New York ancora oggi. La seconda era Baghdad, in Iraq, capitale dell'Iraq, perché c'era una comunità ebraica numerosissima, c'è ancora, molto ridotta, però erano sostanzialmente i discendenti dopo 2500 anni di quegli ebrei là, che hanno continuato a risiedere, si stava bene, si è continuato a stare bene. Ma lì succede qualcosa di originale. Succede in un Ezechiele, sacerdote, nella stessa condizione di quei sacerdoti di Samaria. Lui però è a Gerusalemme. Lui vede arrivare la catastrofe, coglie che la catastrofe ci sarà, coglie che il tempio sarà distrutto. Dove scappa lui? E lui non scappa, anzi, con il suo stile un po' tanto barocco, deve piacere, se no mi infastidisce, però vabbè, i profeti sono persone umane, con un loro stile, ed è normale che alcuni ci stiano più simpatici, più piacevoli, altri meno, e magari che i gusti miei non siano quelli del mio vicino, normale. Si è capito che a me non piace tanto lo stile di Ezechiele, fa niente. E però intuisce che vede la gloria di Dio, la presenza di Dio, che abbandona il tempio, vedi, non c'è più speranza. E però vede anche che va a posarsi da un'altra parte, sulle rive del canale Chebar, a Tel Aviv. Quando 2500 anni dopo ci sarà uno dei primi insediamenti nella periferia di Jaffa, sul mar Mediterraneo, di sionisti, riprenderanno quel nome lì, mica a caso. Tel Aviv, la capitale di Israele, si chiama così per quello. Perché era la zona in cui si erano insediati i primi deportati. Vede la gloria di Dio che va a risiedere fuori dal tempio, dentro un popolo. C'è Dio che continua, lo dice un sacerdote, da sempre nel mondo, chi gestisce la parte più ufficiale, burocratica, liturgica della religione è meno disposto a rinunciarci e a vedere Dio che è a disposizione fuori dagli schemi. Mi starà antipatico come scrive Ezechiele il suo stile, ma quell'intuizione è notevolissima ed è faticosa, soprattutto per un sacerdote. Intuire che Dio continua ad esserci, come prima, non più nel Tempio, ma nel popolo. Ma dove hai le regole che garantiscono quella presenza, come avevi le regole liturgiche nel Tempio? Non ci saranno più, ci sarà altro, ma la presenza divina non viene meno. In una chiave più religiosa, secondo me molto meno di quanto bisognerebbe fare, però un po' di preoccupazione c'è nelle nostre diocesi, nelle nostre parrocchie, che non viene più gente, i più giovani hanno 65 anni, i preti non ce ne sono più. Io onestamente sarò un superficiale, ma forse ho letto anche un po' di profeti, mi viene da dire, sai che ti dico? La struttura ecclesiale potrà anche morire, la presenza di Dio no. L'ho già intuito Ezechiele. Ma così non abbiamo più la garanzia di raggiungere tutti, eccetera, eccetera. Può darsi, ed è un problema. Ma la presenza di Dio non viene meno. Ma che garanzia abbiamo? Prima avevamo il sacrificio, il Tempio, ora non abbiamo più né sacrificio né Tempio, né re. Anche i profeti e i sacerdoti si aggirano senza sapere cosa fare. E qualcosa sarà, perché Dio non viene meno. C'è chi addirittura prende il profeta Isaia, dice, quello lì, scusa, lascialo lì, che abbiamo visto che ci ha ingannato, alla fine non ha funzionato, ci ha messo 140 anni per essere però dichiarato fuori senso, perché tempio del Signore è questo, guarda che fine ha fatto, bruciato. E lo prosegue. Continua a scriverlo, allunga il libro, con altre parole, è il secondo Isaia, non sappiamo neanche come si chiami quel profeta, e scrive alcune delle pagine più belle dell'Antico Testamento, allungando il libro. Allungare il libro vuol dire non era sbagliato. Ma come non era sbagliato? Tempio non c'è più, non era sbagliato. Vuol dire che chi ha deciso di prendere quel libro e di proseguirlo, già solo per questo, prima ancora che scriva, sta già dicendo l'essenziale della promessa di quel libro non è decaduta. C'è ancora. Ma ha promesso che Gerusalemme non sarebbe stata distrutta. Evidentemente non lo è stata. Ma è bruciata. Evidentemente l'essenziale si è salvato. È un percorso che invita a cogliere che l'essenziale non sono le strutture. E l'essenziale, anche nelle catastrofi storiche, perché Gerusalemme è stata distrutta e di morti ce ne sono stati. E non è bello, neanche oggi, essere deportati a 2000 km di distanza. 2500 anni fa era anche peggio. E però l'intuizione è che Dio non viene meno. E quindi per l'umanità continua a restare una prospettiva di vita. Geremia aveva invitato i deportati in una lettera a comprate dei campi. Stabilitevi lì, vivete. Comprare un campo vuole anche dire, vabbè, allora adesso mi organizzo, mi metto a coltivare e mi costruisco una vita. Non è solo il sono rassegnato a stare qua, ma anche il progetto. Vivo. Il secondo Isaia scrive delle cose fantastiche. Consolate il mio popolo, parte da qui. Consolate. Perché io l'ho colpito, ma io adesso lo risano. Arriverà a dire, arriva a dire tante cose. Diciamo, adesso le elenco in disordine. Il mio servo, il mio Messia, Ciro, che io ho scelto, anche se lui non mi conosce. Fermati, cosa hai detto? Hai chiamato Ciro Messia? Sì, ma è un sovrano straniero. Sì, non sa chi sei, è vero, non sa chi sono, ma io l'ho scelto. Ma il rapporto di vassallaggio prevede che se tu ti scegli un vassallo, lui ti sia fedele. Per esserti fedele ti deve conoscere, non importa. Perché io sono presente nella storia, anche se la storia non mi riconosce. Isaia è quello che intuisce che la presenza del servo di Dio non arriva ancora a dire che sia Dio stesso. Un passo alla volta nella storia. La presenza del servo di Dio nel quale mi sono compiaciuto, il mio eletto, è una presenza di chi soffre senza vedersi riconosciuto. Non è neanche un martire riconosciuto, vabbè muoio però tutti mi esalteranno, no. Uomo dei dolori, che conosce il soffrire. Lo credevamo disprezzato da Dio, reietto dagli uomini. Pagine abissali, perché sono pagine che dicono, cioè insieme a tanto d'altro che invece si può meglio analizzare da un'analisi più precisa, puntuale, non questo volo d'uccello che sto facendo adesso, ma che tra l'altro dicono il fallimento umano non dice il fallimento davanti a Dio. La sofferenza umana, che è quella che pensavamo di evitarci nella protezione di Dio, non cancella la tua umanità, né la relazione con Dio, né la promessa di vita. E neanche la morte cancella la promessa di vita. E qua siamo all'assurdo. Nel senso che Isaia intuisce ciò che non ha gli strumenti per spiegare. Che è affascinante. Perché intuisce che Dio resterà presente anche nella sofferenza, anche nella morte. Isaia, spiegaci sta cosa, che non ti chiami neanche Isaia, spiegaci sta cosa. Non lo so, ma è così. E come fai a dire che è così? Perché Dio non è capace di abbandonarci. Una promessa di vita che resta nonostante tutto sembri negarlo. Cioè, nella storia. E ditemi se non è coerente con il nostro mondo d'oggi. Ma va tutto a scatafascio. A parte che forse non è vero. Perché c'è già Ciro che sta arrivando, mi ha detto, ma non sa neanche chi sei. Ma io sì. Ma a parte questo, anche nella sofferenza, nella morte, io sarò con voi. Il mio eletto sa di essere protetto. Ma dove è protetto? L'hai fatto morire. E resta il mio eletto. Sono delle pagine affascinanti, bellissime, anche nel fatto che non sanno spiegarsi. Cioè, c'è un'intuizione che non sa dire perché. È l'intuizione folle degli innamorati. Dice, no, ma noi vivremo bene insieme. Ma guarda che cavolo di persona si è scelto. Tranquillo, ce la faremo. Ma come? Non lo so. Ma ce la faremo. E lì succede un'altra cosa più storica. Succede che questa comunità, che può stare insieme, decide di stare insieme. Vabbè, anche solo protezione, anche solo continuare a parlare, anche solo rimpiangere Gerusalemme. Ai salici di questa terra abbiamo appeso le nostre cetre. Salmo bellissimo, delicatissimo, se togliamo gli ultimi due versetti, perché dove riemerge tutta la sofferenza scomposta e sballata di chi sta male, ve lo ricordate, ma quel salmo delicatissimo, cantateci canti di Sion, come cantare i canti del Signore in terra straniera, se ti dimentico Gerusalemme, se appendi la lingua al palato, eccetera eccetera, bello bello bello. Babilonia, beato chi prenderà i tuoi figli e li spaccherà la testa contro le tue mura, all'anima. La delicatezza. Ma quanti di noi sanno essere composti ed equilibrati nella sofferenza, magari perpetrata da altri, ingiusta? Nel momento in cui riconosciamo che dovremmo reagire diversamente, anche magari. Perché poi ci stanno le cose insieme. Ebbene, lì però succede anche altro. Succede che questa comunità si mette insieme e dice, allora io qua vi sto fantasticando, adesso questo passaggio è fantasia, va bene, quindi prendetelo così, demolitelo, ci sta, però mi piace pensare che una delle molle sia stata l'immagine di Dio e dell'uomo che gli ebrei si trovano a Babilonia. Allora, gli ebrei partono da questa cittadina di 25, 30, 40 mila abitanti, nel mezzo deserto, con un bellissimo tempio, dove il luogo che Dio si è scelto dove porre la sua dimora in mezzo agli uomini, 20 per 15 metri in legno, rivestito d'oro, buco di posto. Finiscono a Babilonia, 1 milione di abitanti forse, nel deserto sì, ma con le fontane nelle strade, con i giardini pensili, con la Ziggurat, 200 metri di base che sale su a gradoni tutta rivestita d'oro, si vedeva a decine di chilometri di distanza, nelle giornate di sole vedevi il riflesso del sole, con un test, con testi, non uno, testi scritti religiosi che erano antichissimi, noi oggi possiamo anche dire sì, avevano già 2000 anni. Arrivano lì questi buzzurri deportati e dicono: bellissimo, ma su Dio e sull'uomo non avete capito niente, ve lo spieghiamo noi. Per me è uno dei passaggi più folli nella storia delle religioni, perché la religione babilonese riteneva che l'essere umano fosse stato creato dagli dèi inferiori per lavorare al posto loro. Concezione umana deprimentissima. L'essere umano valeva nella misura in cui lavorava, produceva. E tra l'altro, come ovvio, tra gli dèi inferiori ci sono quelli più positivi, quelli più negativi, quelli più negativi hanno fatto la donna. Beh, è prevedibile, no? E gli ebrei riscrivono l'antropologia. Questi sono veramente dei disperati che arrivano dai confini dell'impero, deportati, sconfitti, ma su Dio noi la sappiamo meglio. Questa è una modalità. Io posso ricostruire come verosimilmente, però poi hanno composto Genesi. Iniziando a dire che cosa ci accomuna. Siamo un popolo. Perché? Perché abbiamo un solo antenato. Questo è molto culturale. I semiti ragionavano in questi termini. Non solo in Israele, anche a Babilonia, quando facevano alleanze con dei popoli stranieri, trovavano l'antenato comune parente. Dici, ma è un modo espressivo, quindi se ci fate, non ve lo dettaglio, però tutto quello che è la parentela in Genesi si spiega in chiave politica, perché si ricostruivano così, facevano così, a partire dal perché siamo un popolo solo, perché abbiamo un antenato solo, Giacobbe, ok. E anche i rapporti tra le tribù in qualche modo sono attestati dai rapporti tra i diversi fratelli che sono, dipendono da una o dall'altra madre o dalla schiava di una o dell'altra, eccetera, eccetera. Ora, Giacobbe. La storia di Giacobbe se noi la leggessimo da moderni è una storia interessantissima, perché Giacobbe inizia la sua vita da cocco di mamma, che ottiene tutto quello che ottiene con l'inganno o con la violenza, gran bella figura, che continua a farlo, giocando d'inganno ogni tanto qualche mano la perde, però poi globalmente vince lui, sfrutto la definizione, ha ragione lui, Joel Dix, se vi è capitato di leggere, sentire il monologo La Bibbia ha quasi sempre ragione, è bellissimo, ironicissimo, fatto da uno che la Bibbia la conosce, eh? Joel Dix fa il comico, va bene, viene dal mondo ebraico, si vede, e conosce la Bibbia, l'Antico Testamento lo conosce benino, ci ride su, ma non va mai fuori in bersaglio, eh? Dice lo scaltro Labano, che alcuni biblisti rinominerebbero volentieri il figlio di puttana Labano, che effettivamente è un bello scontro ai vertici tra Giacobbe e Labano, come inganno, come fregature, come alla fine vince Giacobbe, appunto qualche mano la perde, ma alla fine la partita la vince lui, torna indietro verso Canaan, sa che suo fratello potrebbe avere qualcosa ancora da appurare con lui, viene a sapere che effettivamente ha organizzato un comitato d'accoglienza di 300 uomini armati. Bel comitato di celebrazione, e fa quello che ci si attende che faccia un signore, tutto d'un pezzo, un generale affidabile, sicuro, solido e coraggioso. Divide il suo gruppo in due, così che uno dei due si salvi, una moglie schiava, figli da una parte, servi greggi e dall'altra, e lui si mette dietro e manda avanti, e lui da solo nelle retrovie, ma che vigliacco. Cioè, proprio quel percorso lo porta però ad un certo punto alla notte al guado dello Yabok, in cui lotta contro qualcuno con cui non riesce a prevalere, da cui viene colpito, da cui si fa benedire e viene benedetto, ma a cui non riesce a distorcere il nome, che serviva come garanzia, eh? Perché se mi accorgo che mi hai fatto il malocchio, io lo faccio a te. C'è un po' di superstizione, ma certo, ma era il mondo antico. E in realtà passa lo Yabok, non è difficile leggere quella pagina com'è, in fondo una lotta interiore del cosa faccio, e alla fine decide di andare, con quale garanzia? Nessuna. Alla fine ha imparato a fidarsi. Lui che ha per tutta la vita sempre avuto la garanzia di avere le spalle coperte, lì decide di affrontare il rischio, va incontro al fratello che gli viene incontro con 300 uomini armati e che quando lo vede si commuove e lo abbraccia. Poi Giacobbe non cambia tutto in una volta, perché intanto diciamo, andiamo insieme, no, vai avanti tu, io vengo dopo, con calma. No, perché poi se sono lento, c'è tutto il greggi, quindi, tu con gli armati fai prima, vai avanti. E tenterà con i figli di mantenere il controllo finché si lascerà portare controvoglia da un figlio che lo fa arrivare in Egitto. Giacobbe inizia la sua vita da padrone della sua vita e la finisce in mano ad altri, dovendosi fidare. È una storia che, detta così, è molto moderna. È una storia di apprendimento, di costruzione di una vita. Ma gli antichi hanno un problema, mettono le cose più importanti all'inizio. Non hanno la struttura mentale per il nostro romanzo di formazione. Noi invece siamo portati a dire la cosa più importante alla fine, no? E gli antichi no, dicevano il contrario. E allora chi compone Genesi con questo interesse di dire siamo un popolo unico, ma anche il nostro capostipite è questo e ha imparato a fidarsi, sa benissimo che detta così non è trasparente. Cosa fanno? Ci mettono prima Abramo. Dove la dimensione della fiducia invece è netta, costante, sempre, dall'inizio alla fine. Abramo si fida. Messo prima serve a dire che quando arriverà la fiducia in Giacobbe, ah, ma vedi che allora è come all'inizio. È un trucco letterario in fondo, Poi permette di mettere insieme tante altre cose, tradizioni, va bene, tutto giusto. Ma poi non si accontentano. Mettono prima ancora 11 capitoli sull'umanità tutta. A partire da quelli spettacolari, i primi tre, sull'uomo, sul suo rapporto con Dio e sulla sua dimensione di genere. A immagine di Dio lo creò, altro che schiavetto, maschio e femmina li creò, altro che parte negativa. E non entro su quei primi tre capitoli che comunque sono di una ricchezza strepitosa, levigatissimi, non c'è una parola fuori posto, voluti così e voluti all'inizio come più fondamentali. Questi li scrivono degli esiliati. Che peraltro in Genesi 1-3 non fanno nessuna distinzione tra loro e gli altri. Nessuna. Potevano dire gli ebrei sono creati dal Dio buono, gli altri invece lo dicono loro, sono stati creati dagli dei secondari. No, proprio... E tra l'altro con questa sfacciataggine del dire Dio crea il cielo e la terra. L'acqua e il suolo, la notte e il giorno, ed è tutto buono. Cioè proprio sembrano dei pacificati che sono in armonia con l'universo, ma questi sono degli sconfitti deportati. Anche questi hanno visto morire il loro mondo. E anziché rimpiangere, lo fanno anche di rimpiangerlo, nel Salmo l'abbiamo citato, ma colgono che Dio continua ad esserci. Al punto che colgono, e secondo Isaia, che Dio continua ad esserci in un territorio straniero semplicemente perché tutto il mondo è il suo territorio e tutti gli uomini sono i suoi, creati. C'è solo Lui. Ed è buono. Ed è interessata alla relazione, non a farsi servire. Notiamolo, era nei cliché culturali che Dio si facesse servire come un sovrano. E però riemerge sempre, in un modo o nell'altro, più chiaro, meno chiaro, eccetera, che Dio in ultimo vuole la relazione, ed una relazione libera. Non era culturale, non era quello che ci si aspettasse, eppure emerge, appunto, a volte meno, perché a volte lo strato culturale è un pochino più spesso, però questa costante torna sempre al di fuori delle garanzie, dei riti, dei luoghi. E in Mesopotamia nasce una forma religiosa nuova, che gli ebrei peraltro portano avanti per 7 secoli insieme a quella poi del Tempio, quando ci sarà di nuovo, senza accorgersi che sono un'altra cosa. L'idea di una relazione con lo scritto, che è una relazione personale, che vuol dire che si gioca soprattutto a livello intimo. Per noi è naturale, ma certo che la relazione è una cosa intima, la religione, scusate. E no, non lo era certo, anzi la religione era quanto di più pubblico ci fosse. Sono loro che se la sono reinventata. Si sono inventati una cosa che non esisteva, per non perdere la relazione con Dio. Io non lo so quali volti acquisirà la Chiesa tra 2 o 3 secoli. Io sono convinto che non assomiglierà a quello di oggi, ma sono convinto che la presenza di Dio non verrà meno, che le domande umane non verranno meno e che lo spazio per risposte sensate ci sarà. Come Gesù, quindi posso anche dire, vabbè, se valeva per lui posso anche metterlo io, non so se ci sarà ancora fede sulla terra, perché non lo posso sapere, perché è questione di risposta libera di ogni essere umano. Però onestamente mi sento di scommettere che sì. Scommettere, certezza non ce l'è, non ce l'ha lui, voglio dire. Accelero, perché non voglio prendere tutto il tempo, voglio che ci sia spazio anche per prendere un attimo fiato e poi per accelero, ma in 10, massimo 15 minuti arrivo alla fine. Così che ci prendiamo un attimo di sosta con un caffè, poi se vogliamo abbiamo ancora tempo per dialogarci un po' prima di chiudere anche in relazione con chi ci ha convocati qua. Perché questi ebrei in esilio, con buona probabilità lo fanno lì, può darsi anche di no, cambia poco, compongono il Pentateuco, che però ha anche una strutturazione forte, cioè voglio dire, leggiti il Levitico, pieno di regole, mi dici che conta la relazione, poi mi riempi di regole. Sì, ma nello stesso tempo notiamolo, che nel Pentateuco ci sono tre corpi legali, tre, e non sono coerenti tra di loro. Come dire, chi lo ha fatto, io adesso provo a dargli voce, anche se lo ha fatto narrativamente, ha detto, le regole ci sono, ci servono, siamo concreti, siamo umani, abbiamo bisogno di norme, però non devono diventare il centro del discorso. E però ci servono per concretezza. Come lo dico? Ne metto tre, diverse. Quasi a dire, ma allora quale delle tre devo seguire? Appunto, non è così importante quale seguire. Certo, avrei bisogno di seguirne qualcuna. Però non attaccarti alla legge che deve essere così. Il Pentateuco ha dentro di sé, di per sé, se lo si legge, l'antidoto all'integralismo. Perché per essere integralisti e seguire alla lettera, fuori dal contesto, delle norme, bisogna che quelle norme siano univoche, almeno. Non lo sono. Ci sono regole diverse che cambiano. Che non può che essere un suggerimento del dire, guarda, sì, la concretezza ci vuole. Ma non esiste una concretezza possibile, ne esistono tante. Scendi a patto con questo. Non pensare che chi non segue la tua sia fuori legge. Segue un'altra legge. Ma il fatto che ci possano essere leggi diverse ti dice anche che il cuore del discorso non è la legge. Che è utile, preziosa, ci serve, ma non è il cuore del discorso, è un altro. E che questo cuore del discorso nell'Antico Testamento già sia la relazione tra Dio e l'umanità si può non vedere soltanto se non lo si vuole vedere, perché c'è in un modo o nell'altro, con più o meno trasparenza, ovunque. Al punto che, tre passaggi ancora, poi chiudo. Al punto che, primo passaggio, la Bibbia si amplia inserendo i libri sapienziali. Cosa sono? Prendiamo i Proverbi, che sono l'esempio più base, più semplice, più base, su Coelet spettacolare e su Sapienza il discorso si complica, ma la base resta questa. Cosa sono i Proverbi? Sono proverbi, cioè sono detti popolari, raccolti da farne 20 capitoli, come dire. Ne hanno trovati, Non si sono accontentati dei due o tre che gli sono venuti in mente, spesso incoerenti tra di loro, perché saggezza popolare non è incoerente tra di loro, tra sé. L'unione fa la forza, chi fa da sé fa per tre. Non dicono la stessa cosa, no, vabbè, fa niente, dipende, devi sapere quale adattare al contesto specifico. Ma il fatto che i proverbi finiscano nella Bibbia dice, prima ancora di quello che dicono i proverbi, dice che il tentativo umano di trovare delle regole nella propria vita, che fa cosa può, appunto, anche incoerente, ha valore spirituale, religioso, è apprezzato da Dio, è parola di Dio. Ma no, ma sono gli uomini che ci hanno provato. Fa niente, vale uguale. Perché è preziosa quella ricerca. Perché è coerente con una relazione che, come tutte le relazioni, mette l'altro al centro. Se è una relazione autentica, non mi metto io al centro. Se no, è approfittarsi. In una relazione sana, equilibrata, tutti e due mettono l'altro al centro. Ma non c'è un centro così. Ma appunto, è il cuore della relazione. Se c'è, vale anche per Dio. Ma d'altronde, non è quello che vediamo fare a Dio? Che continua costantemente, dall'inizio alla fine dell'Antico Testamento, a perdere la faccia per non perdere la relazione con i suoi. Ho detto che ti distruggo, sì, però come faccio? No, ci sto male io. Vi cito una cosa che spesso sfugge. Quando, alla fine del terzo capitolo di Genesi, Gesù scaccia Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, pagina complessa, eccetera, bella, profonda, fraintesa, tutto quello che vogliamo. Siccome i due erano nudi e non avevano vergogna, Gesù li copre, Dio li copre con pelli. Dove le ha prese quelle pelli? Da animali. Come fai a togliere la pelle ad un animale senza ucciderlo? Non puoi. Ma Dio, nel primo capitolo, aveva vietato a tutti di uccidere, anche ai carnivori. Il primo a violare la legge di Dio per venire incontro al disagio dell'uomo, perché non è rischio di vita, ma è disagio, è Dio. Cioè, non... le espressioni mi vengono volgari, ma di fronte all'uomo Dio si cala le braghe. Sempre. Perché la relazione più importante di tutto il resto. Emerge sempre questa dimensione. Non è significativo nel nostro mondo, nella nostra vita, che le relazioni fatica a salvaguardarle, ma che appena ci pensa sa che... È una di quelle cose, cos'è più importante nella vita? Io con i ragazzi... Gli adolescenti sono più facili da questo punto di vista, perché sono più immediati, meno filtri e li incastri meglio. Cos'è più importante? I soldi, certo. Quelli che si sentono più saggi, la salute. Poi li fai ragionare. Arrivano gli amici. Perché? Perché... persone che si fidano di me, di cui io mi fido, che è il cuore della relazione, no? E meglio senza amici o senza soldi? Poi andiamo in crisi. Ma no, ma poi se hai i soldi e anche gli amici partono su, figurati, sono amici dei soldi e non tuoi. Cioè non è immediato, neanche per il nostro tempo, che la relazione è il cuore della nostra vita, però appena ci pensiamo, diciamo, beh, effettivamente... Sai che ti dico? Ma se devo stare anche malato, povero, misero, in mezzo a un campo a dormire, ma ho degli amici intorno, ma sì. Si può fare. E lo cogliamo come cuore del discorso dell'Antico Testamento dall'inizio alla fine. Secondo passaggio, che tra l'altro non è, volendo, scritto nella Bibbia, però in parte sì. Secondo passaggio è che ad un certo punto il mondo ebraico si rende conto che si è già molto sparpagliato per il mondo. La maggior parte degli ebrei, come la maggior parte di quel mondo, parla almeno come seconda lingua una lingua che è diventata universale, il greco. E l'inglese d'oggi, stessa cosa. Cioè ormai oggi ci scandalizziamo. Oh, sai che sono andato in un posto che non parlavano, non trovavo nessuno che parlasse inglese. Oggi è così, cioè, è per dire quanto sono fuori dal mondo certa gente. Nel paese non c'era nessuno che parlava inglese. Il greco era così. Gli ebrei decidono di tradurre la Bibbia in greco. Noi lo sottovalutiamo quel passaggio, ma è enorme. È la prima traduzione religiosa della storia, anzi la prima traduzione vera e propria della storia. Non che in passato non si recuperassero testi scritti da altre tradizioni, ma di solito li si riscriveva. Cioè, liberamente tratto da, ispirato da. No, invece qua è talmente traduzione, come intendiamo noi, che molto spesso si usa la traduzione greca per dire ma è probabile che in ebraico ci fossero parole diverse, perché non corrisponde. In quei pochi punti in cui non corrisponde. È quello che noi intendiamo come traduzione. È una novità. E la leggenda ebraica vuole che appunto ci siano questi 72 saggi che traducono tutti la stessa cosa identica, benché ognuno lavori per conto suo, segno del fatto che sono ispirati da Dio. Quello vuol dire che un buon ebreo può leggere la Bibbia in greco sapendo di leggere la parola di Dio, che è stata scritta in ebraico. Quello vuol dire che Dio non parla ebraico. Non è banale. Io ricordo che il mondo islamico ha una richiesta per essere imam: poter leggere il Corano in arabo. Perché Dio ha scelto la chiarissima lingua araba per comunicarsi, quindi come minimo lo sforzo di prendere la parola di Dio nella sua lingua lo devo fare. È il minimo. Nel mondo ebraico questo non c'è. Voglio incontrare Dio autenticamente nella sua parola, posso leggerlo in greco. Perché Dio non parla ebraico. Non parla anche il greco, evidentemente. Dio parla un'altra lingua, che è quella della relazione. E non è più possibile immaginare una legge rigida di Dio se non ho neanche una lingua rigida. Ma posso scegliere una o l'altra. E chi traduce, peraltro, ogni tanto aggiunge dei pezzi. Aggiunge anche dei libri. Così. Come dire, può ancora allargarsi il canone biblico. Certo che ad un certo punto lo si chiude, ma è interessante quello che succede nel mondo cristiano, eh? Sì, lo si chiude. I canoni biblici dei cristiani sono tanti, diversi, eppure sostanzialmente sulla Bibbia non si discute. Perché? Perché è come se ad un certo punto si metti poi il confine, ma il cuore c'è già, è quello che conta. Poi puoi spostare il confine un po' più in là, un po' più in qua, però insomma l'essenziale non cambia, perché l'essenziale della relazione non cambia. Poi la puoi precisare meglio applicandolo anche ad altri contesti o meno. L'ultimo passaggio, e avevo detto che forse non ci arrivavo, è il Nuovo Testamento, ma io di fatto a questo punto mi ci affaccio soltanto. Faccio notare che qualunque tentativo di ricondurre Gesù, ma anche la prima Chiesa, a riti, formule, contesti ecclesiali rigidi, è destinato al fallimento. Cioè, se c'è una cosa che Gesù mostra di non avere, è il rispetto delle regole rigorose, formali. Non che non riconosca le regole. Quando gli dicono cosa devo fare per avere la vita eterna, elenca più o meno il decalogo. Cioè, le conosce. E le indica come punto di riferimento. Però poi Gesù verrebbe da dire non le rispetta. Non perché si metta ad uccidere o a rubare, ma perché non sono le regole il suo punto di riferimento, sono gli incontri, sono le persone. Notiamolo che chi va a lui anche per metterlo alla prova o ideologicamente lontano, ma entra in gioco, Gesù sta al gioco, entra in relazione. A chi gli chiede con che autorità fai questo? Ve lo dico, voi ditemi il Battista. E loro dicono, se diciamo che il Battista aveva l'autorità che veniva da Dio, ci dirà perché non l'avete ascoltato. Calcolo, non relazione, calcolo. Se diciamo che dagli uomini, però qui poi la gente ci crede, si offende con noi, non lo sappiamo. Neanche io ve lo dico. Cioè, non entri in relazione, io non entro in relazione, però è quella che chiedo. Arriva il dottore della legge, che per metterlo alla prova, gli chiede qual è il più grande dei comandamenti, e Gesù gli dice, amerai il Signore Dio tuo, e l'altro completa, sì, e per quello anche... Si mettono a dialogare, ha detto, bravo, non sei lontano dal regno di Dio. Gli fai complimenti. Ma è venuto per metterti alla prova, è tuo nemico. Non è mio nemico, forse lo era. È entrato in relazione, a me basta. Questo significa, e chiudo, che a volte con fatica, ma in tutta la Bibbia, dall'Antico, sul quale mi sono fermato molto di più, al Nuovo Testamento, dove peraltro le cose sono più chiare, noi ci troviamo di fronte ad un cuore del messaggio che è Dio è dalla parte dell'umanità e vuole entrare in relazione con lei per farla vivere bene. Comporta tante conseguenze sulla dignità umana, sul ruolo della sofferenza, del fallimento, della morte, eccetera, eccetera, e potremmo andare avanti veramente per settimane. Però il cuore del discorso è lì. Questo cuore del discorso io non lo sento lontano dalle esigenze profonde dell'umanità d'oggi. Mi sembra che siano anche non immediatamente riconosciute, però sono esattamente le esigenze nostre, umane, nostre, dei nostri giovani, del nostro mondo. Non immediatamente riconosciute sempre, eh? Appunto, cosa hai bisogno? Soldi. Ma davvero? E quando sei pieno di soldi e di gente intorno che te ne chiede e non hai nessuno di cui ti puoi fidare, sei sicuro di star meglio? Ah già. Però su questo veramente questa scrittura è competente nel dirci che i contesti di vita nel quale applicare questo sono tanti, variegati, diversi, che vuol dire, beh, ce ne saranno anche di nuovi. Ad ogni passaggio c'è stato chi ha pensato che qui ci perdiamo la relazione con Dio, e ad ogni passaggio quella relazione si è reinventata. Viene da dire, ma non è blasfemia, perché è davvero che è quello che succede nella vita. Ma no, come? Noi ci sentivamo tutti i giorni al telefono e adesso tu sei senza telefono, come facciamo? Troveremo un altro modo. Se ci interessa la relazione, troviamo un altro modo. E potremo anche rimpiangere il telefono, ma possiamo anche dire, ma sì, l'essenziale lo salviamo lo stesso. È quello che riemerge sempre nella Bibbia ed è quello che a mio parere continua a restare autentico. Poi certo si riempie anche di contenuti. Questa alta dignità umana vuol dire anche certe cose e alcune ci vengono dall'esterno. La più semplice, ci è venuto dall'esterno il recupero della pari dignità della donna. Dopodiché, dopo che ti arriva, con un po' di fatica, dici, beh, effettivamente lo sapevamo già, ma allora perché non l'avete vissuto? Fa niente, adesso da adesso in poi però basta scuse. E credo che sia una parola che nel suo essere variegata, complessa, vitale, continua a stimolare domande, conforto, risposte che non sono definitive, sono più di io ci sarò, è quello che Mosè dice, si sente dire da Dio, di così, io ci sarò, è il vostro Dio, che non è una storia già scritta, ma è peraltro la più seria, profonda promessa che un uomo umano può fare ad un altro, perché dice la Bibbia, l'umano è immagine di Dio. E questa divinità per immagine continua a esserci nel mondo. Dio sarebbe ottimista su noi, sulla nostra società, sul nostro sviluppo. Noi spesso non lo siamo, ma Dio sì. Allora, direi che più o meno, non è che sia una conclusione, però è più o meno un percorso. Forse vi siete meritati almeno un caffè o una boccata d'aria, e poi magari grazie un quarto d'ora, 10 minuti, sì. E poi un po' di dialogo ci riusciamo ancora a fare.